e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci ritrovate a Cuore Denari, buon venerdì Nicoletta. Buon venerdì anche a te. Bene, allora, una settimana che si chiude, l'avrete visto, con una marcia indietro sulla normativa che ha fatto tanto discutere, che è stato anche uno dei temi di denari più discussi di questa settimana. Passa da 7 a 18 il numero delle rate di mutuo non pagate che autorizzerebbero, usiamo rigidamente il condizionale, l'esproprio della casa da parte della banca senza passare dal tribunale. Allora, questa è una notizia flash. Noi ci torniamo lunedì, faremo un punto su tutta la direttiva europea sul credito al consumo, che comprende anche questo aspetto molto delicato. Aspettiamo di farla lunedì perché, visto che qua cambiano idea ogni 5 secondi, noi vorremmo avere qualche punto di riferimento un po' preciso. E quindi vi lasciamo tutto il fine settimana per farci le vostre domande, ricordando che la norma non è retroattiva ma riguarda tutti i nuovi mutui che verranno sottoscritti in futuro. Non quindi, sappiamo chi l'ha già da fatto? Quando. Sta tranquillo, se è okay. In ritardo con le rate, ha altri modi per gestire la patata bollente con la banca. Magari rifacciamo anche il riassunto di questo lunedì, però sul tema di questi giorni, lunedì a bocce ferme faremo qualche punto della situazione, speriamo preciso. Quindi intanto cominciate già a meditare sulla vostra domanda e scrivetecela a cuoredenari@radio24.it, lunedì vi risponderemo. Oggi invece abbiamo scelto un'altra notizia da approfondire. Sempre di attualità. Parola d'ordine, non ce la dimentichiamo mai per aprire la nostra puntata. Parliamo di polizze dormienti, scadute, prescritte senza che gli interessati o i loro eredi ne abbiano rivendicato il rimborso. Perché la notizia di attualità? Perché si apre uno spiraglio, o meglio una finestra, per alcuni di questi casi. C'è tempo fino all'8 aprile per fare ad un istituto specifico che è la Consap la richiesta di rimborso. Fra poco vi spieghiamo tutto, risponderemo alle vostre domande all'800 24 00 24. E invece Deborah, noi oggi parleremo di grasso. Bene. Quale novità, mi direi tu? È un tormentone il grasso, ma noi oggi sorprendentemente ne parleremo molto bene, bene della serie Non sempre il grasso viene per nuocere, perché a saperlo utilizzare può fare grandi cose, cancellare i segni del tempo, regalando quindi alla nostra pelle, nel caso ce ne fosse mai bisogno, freschezza e tono, ma anche rigenerare e costruire i tessuti dopo cicatrici o traumi. Ma attenzione, può anche restituire alle nostre articolazioni, segnate dall'usura degli anni, un nuovo benessere. Allora, se volete saperne di più, restate con noi, ci raggiungerà un grande esperto, il professor Carlo Tremolada, chirurgo plastico, che ci racconterà l'altro lato del grasso. Il fatto è che crediamo tutti alla stessa favola. Tanto siete voi che avete fatto il mutuo. E il bello della faccenda è che nessuno è responsabile. Te lo ricordi? Gordon Gekko. Anzi, eccolo lì. Michael Douglas, così lo ricordiamo meglio per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Che si ricorda sempre con piacere. Esatto. Questo brano di questo film, appunto, era tratto da Il denaro non dorme mai. Gli appassionati sanno che stiamo parlando del titolo di un famoso film. Si tratta del sequel di Wall Street, che uscì nel 1987, diretto da Oliver Stone, appunto, con la magistrale interpretazione di Michael Douglas. Perché partiamo da qui? Non per tornare sui mercati finanziari, effettivamente i flussi di denaro non dormono mai, non si fermano mai, ma perché in realtà abbiamo scoperto negli ultimi anni che nei cassetti di molti italiani c'è del denaro che dorme. E come? Allora, vi ricorderete che in passato, devo fare un pochino un preambolo un po' lungo, abbiamo fatto diverse volte delle trasmissioni sui cosiddetti depositi dormienti, cioè quei conti bancari non movimentati per almeno 10 anni, per i quali una legge imponeva il risveglio, cioè la rivendicazione da parte dei diretti interessati, altrimenti le disponibilità sarebbero passate al Ministero dell'Economia per alimentare un fondo destinato a risarcire le vittime dei vecchi crack finanziari. Questa questione risale almeno al 2008-2009. In quella fase ci fu anche uno scontro molto duro fra le associazioni dei consumatori e il Ministero dell'Economia su un tema specifico che rientrava nella questione, cioè la situazione delle polizze vita. Perché? Perché queste polizze avevano una situazione particolare, avevano una prescrizione naturale di 10 anni, quindi se non le riscuotevi alla scadenza avevi 10 anni di tempo per farlo. Una legge del 2008 stabilì che la prescrizione veniva ridotta di punto in bianco a 2 anni in più con la retroattività, per cui il Ministero dell'Economia di punto in bianco si tirò dentro un sacco di soldi di tante persone. Furbetto. Quindi immaginate, esatto, la sorpresa di chi chiedeva riscatto di quelle polizze, magari perché intestata ad un congiunto che veniva a mancare, scopriva appunto che la legge aveva trasferito il denaro al Ministero dell'Economia. Si intervenne con altri provvedimenti, ripristinando la prescrizione a 10 anni, e adesso queste polizze periodicamente si possono risvegliare. Allora, dal 24 febbraio fino all'8 aprile arriva questa nuova ondata, l'hanno chiamata così, di rimborsi per le polizze dormienti. Sono quelle che sono andate in prescrizione prima del 2010. Lo so che è una situazione difficile, ma in realtà non tanto, e pare che sia molto diffusa, perché alcuni ascoltatori ci hanno sollecitato ad occuparcene. E quindi noi siamo qua. Esatto. Per voi. Allora io ti presento Valeria, che è una nostra ascoltatrice, che ci ha scritto perché si trova proprio a gestire questa situazione. Esattamente. Allora ce la facciamo raccontare. Valeria, buongiorno e benvenuta. Ci sente? Non l'abbiamo ancora in linea, non capisco che cosa stia succedendo. Allora, c'è, ma non parla. Valeria. Valeria, ci sente? Allora, la racconto io la situazione di Valeria, che ci ha mandato questa mail. Sua mamma è deceduta nel 2009. Aveva come unico risparmio una polizza presso una banca, 24.000 euro, della quale la famiglia è venuta a conoscenza solamente 3 anni dopo. La polizza rientra proprio nella normativa che le prescrive dopo 2 anni dal decesso dell'assicurato, ci racconta lei. Poi la prescrizione è tornata a 10 anni, insomma, morale, lei fa fatica naturalmente a rientrare in possesso di questo denaro. Noi le avevamo risposto perché non sapevamo che si aprisse questa finestra per il rimborso. Valeria. E Valeria c'è. Sì, Valeria. Buongiorno. Dove mi era finito? Ho dovuto raccontare io tutto per lei. È caduta la linea. Allora. E niente, sì. Senta, io intanto vi ringrazio della risposta che mi avete dato anche per mail molto veloce. Purtroppo però io sono andata nel sito della Consap e la finestra aperta non riguarda il periodo temporale della mia polizza. Infatti lo abbiamo appurato anche noi in un secondo momento, Valeria. Allora, ci rifà un po' i parametri della polizza di cui era titolare sua mamma e che adesso dalla quale adesso voi sareste eredi? Sì, allora guardi, la polizza della mia mamma è mancata il 2 novembre del 2009. Noi non avevamo trovato in casa nessun tipo di contratto. Mia mamma non aveva nessun tipo di risparmio, aveva solo un librettino postale dove riscuoteva la pensione, non abbiamo fatto successione, non pensavamo non avesse niente. Dopodiché ci è arrivata, dopo 3 anni e mezzo dalla morte, ci è arrivata a casa una comunicazione della banca che c'era questa polizza intestata a lei. Siamo andati in banca e praticamente ci hanno detto che la polizza non era già più riscuotibile, era già prescritta. Non sia mai che vi avvisino per tempo, naturalmente. Perché hanno aspettato già questo, 3 anni? Esatto, infatti è una bellissima domanda questa, che l'intermediario si svegli, altro che polizze dormienti. Questo è il problema, insomma, che noi non abbiamo avuto mai. Cioè, a parte che mia mamma non aveva una copia del contratto ed era una persona precisissima, in casa non abbiamo trovato assolutamente niente di questo. Ma poi la viviamo un po' come un furto questa cosa, certo. Perché voglio dire, io tra l'altro, come vi dicevo, ho un fratello con un handicap totale dalla nascita. Immaginate voi se mia mamma avesse saputo che gli unici suoi risparmi sarebbero stati persi in questo modo. E certo, immaginiamo anche questi 20.000 euro erotti quanto le possano far comodo, Valeria. Allora, intanto abbiamo una finestra per i rimborsi, non riguarda voi, ma magari se ne riaprirà qualcun'altra fra qualche Speriamo. Mese, magari ci rientrerete, quindi non perdiamo le speranze. Tanto materiale allora, grazie Valeria, di cui discutere. Grazie a voi, grazie di tutto. Buona giornata. Di cui discutere con Vittorio Garone, responsabile vicario gestione fondi di solidarietà della Consap. L'abbiamo evocata questa organizzazione, adesso racconteremo che cosa fate. Dottor Garone, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ben ritrovato a Cuore Denari. Allora, qua tra una storia e un'altra, per argomentare bene il lancio della nostra trasmissione, perché era un po' complicato, mi sono bruciata tutto il primo blocco, però speriamo almeno di aver inquadrato bene, no, Nicoletta, l'argomento. Sì, assolutamente. Ecco. Sei stata magnifica. Perfetto, grazie. Certo, mi faccio i complimenti da sola. Allora, facciamo una cosa, facciamo subito il traffico, così almeno il dottor Garone potrà spiegarci bene sia la situazione di Valeria, sia in che cosa consiste questa finestra per i rimborsi delle polizze dormienti per chi le ritrova nei cassetti della propria casa, se magari c'è un nonno che è mancato, si recuperano un po' le cose di queste persone che non ci sono più, e tra i documenti spunta anche un vecchio investimento del quale non si era a conoscenza. No? Che cosa si può fare per risvegliare questi rapporti dormienti? 800 24 00 24, chiamateci, vi risponderemo tra poco. e denari. Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro con... Allora, se c'è una polizza che dorme in casa vostra, potrebbe essere questo il momento buono per risvegliarla e far tornare nelle casse della vostra famiglia dei soldini che vi spettano, perché sarebbero dovuti tornare ad un parente che non c'è più. 800 24 00 24, se avete ritrovato a casa vostra un documento di questo tipo che attesta che in passato è stato fatto un investimento del quale vi eravate dimenticati, vediamo se ci sono i presupposti per risvegliare questo strumento finanziario. Allora, se c'è una storia di questo tipo, raccontatecela appunto al nostro numero verde. Vittorio Garone, responsabile vicario, gestione fondi di solidarietà di Consap. Intanto mi sembra dovuto ai nostri ascoltatori, dottor Garone, un veloce biglietto da visita della vostra organizzazione che abbiamo ospitato spesso a Radio 24 nel nostro programma, ma ricordarlo non ci fa certo male. Benissimo, ricordo che la Consap, che è la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, nasce nel 93 nel momento in cui l'INA si è privatizzata e quindi ha dovuto cedere quelle che erano le attività pubblicistiche allora gestite dall'INA stessa, e nel tempo via via si è dotata, diciamo, di una serie di servizi sia assicurativi ma anche altri di rilievo pubblicistico che gestiamo per conto delle varie amministrazioni dello Stato. Quindi, diciamo, dall'iniziale fondo di garanzia per le vittime della strada, via via nel tempo abbiamo, diciamo, preso l'incarico di gestire i fondi di solidarietà ed altri, diciamo, ad oggi ne gestiamo circa una ventina. Esatto, tra l'altro, per ritornare anche al tema da cui siamo partiti, anche il fondo di solidarietà per chi non riesce più a pagare il mutuo avete gestito. Esattamente, esatto, gestiamo anche il fondo anche per quello, la sospensione delle rate del mutuo, per cui chi è incappato ad esempio in un licenziamento può usufruire di questa iniziativa, per cui viene sospeso fino a 18 mesi il mutuo sulla prima casa. Andiamo al tema di oggi però, le polizze vita. Allora, dal 23 febbraio si è aperta questa nuova finestra per il rimborso parziale agli aventi diritto delle cosiddette polizze dormienti. È un aspetto importante perché abbiamo già avuto altre finestre in passato, dottor Garone. Esatto. Qui è il Ministero dello Sviluppo Economico che ha dimostrato una certa sensibilità, e in relazione appunto alla legge sui dormienti, per cui tutte le polizze prescritte dovessero essere devolute a questo fondo, ha previsto in più momenti, questo è il terzo attualmente, diciamo delle finestre per comunque poter rimborsare, diciamo, alcune polizze, diciamo con un range di eventi ben determinato. Quello che riguarda questo ultimo, che è quello aperto, riguarda le polizze per cui gli eventi per cui di morte o di scadenza della polizza siano avvenuti dopo il 1 gennaio 2006 e fino al 31 marzo 2008. Questo è, diciamo, il range che può essere. E questo è il motivo per cui la famiglia di Valeria non può in questo momento purtroppo rivendicare alcunché. In questo purtroppo momento. No, ecco. Purtroppo no. Auspicando che se ne apra un'altra, sì. Esatto, l'auspicio è questo, visto appunto la sensibilità dimostrata, non è escluso che in futuro possa essere ampliata questa finestra. Adesso spiegheremo agli ascoltatori la modalità con cui questo risveglio si può effettuare, ma dottor Garone, esistono dei dati su quante polizze periodicamente vengono rivendicate attraverso il vostro canale da contraenti o eredi di vecchi contraenti di queste polizze? Quante persone fino ad ora hanno potuto riavere il loro denaro? Insomma, avete qualche statistica? Guardi, sì, noi abbiamo dei dati su questo, in realtà su tutti gli avvisi che sono le finestre che sono state aperte abbiamo accolto circa 8-900 polizze pratiche che sono state avanzate, diciamo, sono state richieste per il rimborso. Allora, dobbiamo anche ricordare un altro aspetto importante. Io prima dicevo che la finestra che si apre ora dà diritto ad un rimborso parziale alle persone appunto che rivendicano. Perché parziale, dottor Garone? Allora, intanto il rimborso è parziale perché è previsto che possa essere rimborsato fino al 70% del valore della polizza, e il motivo risiede nel fatto che il Ministero ha potuto destinare una cifra non amplissima, diciamo, per ovvie esigenze di disponibilità del Ministero stesso, che sono state destinate per questa iniziativa è pari a 3,5 milioni di euro. Quindi, se sulle stime, diciamo, delle polizze che potrebbero essere rimborsate, si è si è previsto questo per questa percentuale massima per andare incontro il più possibile a un pubblico più ampio, diciamo. Certo. Adesso andremo alla procedura, quindi come si fa a chiedervi se si possono rimborsare appunto queste polizze o meno, quanto tempo passa da quando si fa la domanda a quando si ha una risposta e quant'altro, ma le volevo chiedere un commento aggiuntivo, dottor Garone, al caso di Valeria, perché ci ha colpito un po', lei lo ha sentito prima come siamo rimaste sorprese con Nicoletta, del fatto che l'assicurazione chiami questa famiglia dopo 3 anni e mezzo di scadenza della polizza. È un tempo corretto, io lo so che guardi, non è corretto, purtroppo cioè che non è lei la persona competente a dare un giudizio, un'indicazione la posso dare, diciamo che le compagnie di assicurazione più virtuose, chiamiamole così, si preoccupano di avvisare prima che del termine di prescrizione gli assicurati, però questo è un diritto che deve far valere l'interessato ovviamente, quindi non gli si può attribuire se non una responsabilità morale in questo senso alle compagnie. Era compito dell'interessato rivolgersi per tempo. Lo so, alla però compagnia. In questo caso appunto la famiglia non lo sa. Questo, non ripeto, nulla. Molte compagnie lo fanno. Ma perché io capisco, dopo se la polizza è scaduta, dopo 2 anni nessuno ti chiama, è evidente che qualcosa nella famiglia è successo. Se ti devono chiedere no? dei soldi, sono svegliissimi. Leggervi un messaggio di Fabio. Che è esattamente scrive. Quello che dice lui. Curioso, infatti. Come i debiti rimangano ai figli alla morte dei genitori, ma i risparmi no. Infatti. E qua potremmo comunque aprire. In quest'ottica abbiamo sensibilizzato l'ANIA, che è l'associazione di tutte le imprese di assicurazione, far presente che si è aperta questa finestra, questa possibilità di rimborso, proprio in quest'ottica, diciamo, di avvisare gli eventuali interessati a fare domanda a Consap. Quindi ci siamo preoccupati di interessare. Però ecco, che si muovano, lo dico anche agli amici dell'ANIA che conosco bene, perché siccome non è una faccenda della quale parliamo oggi, ma appunto abbiamo ricordato tutto il trascorso che c'è su una vicenda piuttosto complicata, voglio dire, se velocizzassimo un po' le operazioni non sarebbe male. 800 24 00 24, intanto il numero verde per i vostri interventi. C'è oppure anche scriveteci, la proposta di Antonia, la vuoi leggere? Via SMS. Allora, metto gli occhiali. Allora, stia attento, dottor Garone. Non esiste un punto generale di raccolta polizze vita dove far riferimento in maniera semplice ed efficace e dove chi ha parenti defunti possa scrivere o telefonare per sapere se il defunto aveva una qualsivoglia polizza? Non sarebbe magnifico? Esatto, ma c'è l'ANIA, la raccolta di polizze. Ma l'ANIA ce l'ha la banca dati, voglio dire. Adesso stiamo facendo tutto questo lavoro anche per dematerializzare i contrassegni assicurativi dell'auto, no? Dottor Garone, quindi le banche dati oggi siamo strapronti su meccanismi nuovi di questo. Io credo che l'ANIA la disponga. Ecco, appunto, per cui è proprio un pochino un problema di volontà. Adesso già so che nel pomeriggio mi chiamerà l'ufficio stampa e mi dirà perché non ci ha chiamato a fare questa trasmissione insieme a voi, perché adesso non interessa capire come risvegliarle le polizze, poi ne faremo un'altra volta. Allora, cominciamo con l'ABC, dottor Garone, del risveglio della polizza dormiente. Allora, la procedura è questa. Intanto, come ha detto lei, le stanze devono essere presentate a Consap entro l'8 aprile 2016. E questo è un termine ultimativo, quindi è fissato dal Ministero, per cui non possiamo concedere delle dilazioni. E quindi le domande devono pervenire in Consap entro quella data. E possono essere ovviamente trasmesse o con raccomandata, con ricevuta di ritorno o a mano, o anche per posta elettronica certificata a questo indirizzo consap@pec.consap.it. Saranno prese in considerazione ovviamente quelle pervenute entro la data che dicevo. Benissimo, dottor Garone, ci dobbiamo fermare perché ho il giornale radio, ma la prego di restare ancora un po' con noi, perché dopo l'informazione ritorneremo per un'altra decina di minuti in sua compagnia per ritornare a fare l'ABC di come risvegliare le polizze dormienti, chi ha diritto a risvegliarli in questo momento, quanto dura l'istruttoria, entro quanto tempo sappiamo se possiamo rivendicare questi importi o meno. 800 24 00 24 per le domande degli ascoltatori, vi aspettiamo tra pochissimo. Certo. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Mamma mia, che incubo questo, proprio un suono brutto con cui risvegliarsi. È il suono della sveglia, molti gli hanno dato ben volentieri l'appuntamento a lunedì prossimo. Noi in quest'ultima puntata della settimana di Cuore Denari non stiamo parlando della nostra sveglia mattutina, ma di come molti italiani potranno finalmente svegliare alcuni importanti depositi di denari dormienti. Stiamo parlando delle polizze dormienti. Dal 24 febbraio fino all'8 aprile è possibile fare richiesta di rimborso per le polizze andate in prescrizione prima del 2010. È la terza finestra che si apre per una nuova tranche di polizze, per cui se avete ritrovato nei cassetti di casa vostra polizze vita che sono scadute, magari erano state sottoscritte da un familiare che non c'è più, non ne sapevate nulla, sappiate che se l'arco temporale è quello corretto potete andare a rivendicare questo importo. La procedura l'abbiamo spiegata in apertura con il dottor Vittorio Garone della Consap, è l'istituto al quale potete fare la domanda per richiedere queste cifre. E allora ritorniamo sull'ABC per la richiesta. Dottor Garone, eccoci a noi. L'unica possibilità per poter chiedere questo denaro è rivolgersi a voi, inutile rivolgersi alla compagnia di assicurazione. Lo vogliamo precisare bene questo aspetto? Assolutamente sì. Le domande, ripetiamo, devono essere presentate solo a Consap entro l'8 aprile, o con raccomandata con ricevuto ritorno, o con posta elettronica certificata o a mano. E tutte queste informazioni sono sul sito della Consap, dove è anche diciamo possibile scaricare il modulo per fare l'istanza. Benissimo. Veicoleremo anche noi queste informazioni attraverso il nostro sito di Radio 24, attraverso i nostri social, in modo tale che anche gli ascoltatori, appunto, che ci hanno ascoltato questa mattina possano avere un accesso veloce al vostro sito. Allora, poi procederete, da quello che ho capito, dottor Garone, all'esame delle domande pervenute in ordine cronologico. Entro quanto darete risposta alle persone interessate? Allora, innanzitutto preciserei che all'istanza che viene presentata devono essere allegati alcuni documenti che ci consentono poi di svolgere l'istruttoria. Oltre alla copia, diciamo, del documento o del codice fiscale, è necessario allegare la copia della polizza e la cosa più importante è l'originale dell'attestazione che rilascia la compagnia di assicurazioni, in cui dichiara che ha devoluto l'importo al fondo dei dormienti, perché questa è condizione per poter avere rimborso. Quindi è necessario farsi rilasciare dall'assicurazione questo documento in originale e trasmetterlo insieme all'istanza. A questo punto Consap, comunque, nel caso di istanze non complete di questi documenti, provvederà a richiederli direttamente a ciascuno. Certo. E questi documenti però devono pervenire entro il 20 settembre 2016. Ecco, questa, quindi diciamo che se la documentazione sarà incompleta non lascerete cadere così la cosa disinteressandovi delle persone. Ecco, richiederete la documentazione che manca. Ci in modo tale noi chiederemo il documento mancante, che però, ripeto, deve pervenire entro il 20 settembre 2016. Beh, insomma, ci sono altri sei mesi, per cui c'è tutto il tempo. Esatto. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. Adesso sentiremo Maria Rosaria da Latina, poi le chiedo, dottor Garone, allora aspetterete di cominciare a fare una valutazione delle persone che hanno diritto dopo l'8 aprile, quando avrete ricevuto, immagino, tutte le domande, perché ricordo che c'è un plafond disponibile, 3 milioni e mezzo da parte del Ministero dell'Economia per rimborsare chi farà richiesta, per cui se i richiedenti porteranno un importo maggiore complessivamente, qui si dovrà andare un po' a ripartono, ecco perché abbiamo detto prima, certo, che al massimo al 70% si potrà. In realtà noi questo calcolo lo faremo dopo il 20 settembre, che era appunto la data che dicevo per terminare il termine ultimo per presentare i documenti, perché ovviamente non possiamo respingere istanze perché incomplete, lo possiamo fare solo dopo il 20 settembre. Allora, quindi noi dopo il 20 settembre faremo il calcolo percentuale in base alla disponibilità che abbiamo, sul numero delle domande accoglibili. Chiarissimo. Maria Rosaria da Latina, benvenuta. Ricordo ancora il numero verde, gli ultimi minuti di tempo per dialogare con Vittorio Garone, responsabile vicario, gestione fondi di solidarietà di Consap. Maria Rosaria, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Ci dica. Buongiorno. Vi ho chiamato perché così al volo, negli ultimi pezzi della vostra trasmissione, ho sentito di queste polizze dormienti. Ecco, noi abbiamo, dico noi perché parlo a nome delle mie nipoti, una polizza Roma Vita, sì, che era stata fatta nel 98 da mia sorella in seguito alla morte del marito, e avevamo bloccato 10 milioni in banca per 15 anni in modo tale che le ragazze, in caso di mancanza anche della mamma, potevano usufruire di questo piccolo reddito per andare all'università. Purtroppo nel 2001 è morta mia sorella. Noi siamo andati in banca perché avevamo sentito che all'epoca, verso il 2003-2004, c'era stata una legge che diceva che bisognava cambiare la polizza in caso di mancanza di... del contraente, diciamo, originario. Esatto. E quando siamo andati lì allo sportello ci hanno detto no, non è il caso della vostra polizza, quindi state tranquilli. Quando è stato il momento di ritirare questi soldi nel 2013, ci hanno detto che tutto ciò non era possibile perché non avevamo fatto questo passaggio. Certo. Allora, quindi, Maria, certo, sarebbe interessante avere il documento in cui vi dicono no, non lo faccia questo passaggio, perché non è necessario. Bisogna sempre farsi scrivere qualcosa, tutto. Io carta, verba, volante. Vero? Sì, guardi, poi non è che io predico bene, ma... Vabbè, però intanto predichi, infatti, io imparo. Dottor Garone, sì, mi rendo conto che magari non è esattamente un caso di quelli di cui stiamo parlando questa mattina, no, ma avrebbe no, appunto un'idea di quello che è successo a Maria Rosaria. Magari, Maria Rosaria, queste ragazze adesso quanti anni hanno? Le ragazze hanno adesso 21 anni. Perfetto. Quindi allora, diciamo che sono ancora all'università, uh-huh, con un grande sforzo ovviamente degli zii per cercare di aiutarle. Esatto. Però questa cosa non l'avete risolta. Faccia una cosa, no, Maria Rosaria. No, l'hanno proprio preso in considerazione, cioè l'hanno proprio detto non si può far nulla. Allora, Maria Rosaria, dica alle sue ragazze di scriverci, ci mandi qualche documento da cui possiamo risalire. Adesso io Roma Vita non so neanche che compagnia di assicurazione, dove sia finita, se è stata incorporata appunto in qualche altro gruppo assicurativo, adesso al volo non mi viene in mente, perché poi, dottor Garone, il tema è anche un po' quello, no? Adesso a prescindere dal caso di Maria Rosaria. Dormiente o no, è anche vero che magari qualcuno fa un po' di difficoltà a rivendicare questi importi, perché effettivamente in questi anni del riassetto dell'industria assicurativa italiana lo abbiamo vissuto. C'è anche questa complicazione in più nell'andare. Voi dove andate a rivendicare queste somme, peraltro? Dal Ministero dell'Economia, ho capito, perché... Sì, noi abbiamo lo stanziamento, diciamo, che è a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico. L'economia è il Ministero che gestisce il Fondo Rapporti Dormienti. In realtà però questi rimborsi sono possibili grazie a una dotazione messa a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico. Per cui se anche la compagnia di assicurazione non esistesse più, la persona non si deve interessare a questo aspetto. No, se ha i requisiti, esatto, se ha i requisiti per rivendicare l'importo, quelli che abbiamo detto, può chiedere a voi. Allora, quelli che sono i requisiti da tener conto, appunto, è l'evento, il range di date per cui è successo o la scadenza della polizza o il caso morte. Ricordiamoli ancora una volta, dottor Garone, che mi sembra valga la pena. Allora, l'evento deve essere successivo al 1 gennaio 2006, quindi mi sembra nel caso della signora Maria Rosaria non sia più possibile. No, infatti. E fino al 31 marzo 2008. Benissimo. Questa è la data per gli eventi. E gli eventi significa la morte del contraente, morte o la scadenza della polizza se l'assicurata è ancora in vita. Bianca da Pordenone, benvenuta. Buongiorno. Volevo fare un'informazione. Io mi è deceduta mia mamma a settembre e ho ritrovato nelle sue carte un'assicurazione che mio fratello, che purtroppo ha avuto un incidente molti anni fa nel 79, con una polizza a suo favore. Sì. Posso fare qualcosa? Quando è scaduta la polizza? Allora, intanto non ci siamo dentro con la perdita della mamma, perché è venuta a mancare di recente. L'assicurazione è scaduta quando, Bianca? La, l'assicurazione penso che non sia appena iniziata, perché era cominciata nel 75. E allora, mio fratello è morto nel 79. Non siamo nel caso di cui stiamo parlando questa mattina, Bianca. Detto questo, magari possiamo provare a darle una mano in maniera alternativa. Se ha tempo di scriverci, mandarci due documenti e ci scriva a cuoredenari@radio24.it. Dottor Garone, non le faccio nemmeno commentare il caso di Bianca, perché purtroppo mi pare che non siamo nel caso dei risvegli di cui parliamo questa mattina. Velocemente, no. Giovanni da Piacenza. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato e volevo fare una domanda, non so se è attinente alla trasmissione, all'argomento che state trattando, ma la faccio per approfittare magari del suo ospite. Dunque, io tanto che ci siamo, no? Certo. Tanto che qui approfittiamone. No, ma no, ho iniziato a sentire la trasmissione un po' tardi, magari ne avete già parlato. Quindi va bene, vada. Io negli anni 90 ho acceso un'assicurazione alle generali per mio figlio. Non vivevo con sua mamma all'epoca, quindi lui era un bambino. E avevo acceso questa assicurazione che a 18 anni gli consentissero di andare a studiare oppure di prelevare di prelevare quello che avevo versato. In pratica poi io non ho più pagato questa assicurazione per una serie di cose, per una serie di motivi, e adesso è scaduta. La domanda è, c'è lo spazio per poter recuperare qualcosa? Quando è scaduta, Giovanni, che lei sappia? Dunque, allora, 95, 10 anni nel 2005. Dottor Garone, può rientrare questo caso particolare nella casistica delle polizze che si possono risvegliare? Cioè adesso, a prescindere dal fatto che non parliamo per fortuna di nessuno che è deceduto, né di una polizza è scaduta in termini naturali, ma non era più stata alimentata? Dottor Garone? Sì, no, dicevo, guardi, intanto bisognerebbe capire se si tratta di una polizza vita, perché non ho capito bene se era stata costituita a titolo di investimento per il figlio. Ah, esatto, allora guardi, per concludere, Giovanni, ma probabilmente non rientra nei casi di stamattina, per concludere, dottor Garone, poi dobbiamo salutarla, fare il cambio tema, perché molti ascoltatori aspettano di capire un po' se hanno... Di che grasso stiamo parlando? Se hanno del grasso già... buono addosso. E poi Bruno... Ecco, o non Bruno. Ecco, quali sono le polizze vita, le polizze che possono essere risvegliate, a prescindere dalle caratteristiche anagrafiche e legate alla scadenza dello strumento? Sono le polizze che prevedono il caso morte, ecco, come qua. Caso di risarcimento della compagnia. Quindi se avete una... quella contenuto finanziario, il unit link, non c'entrano niente. Quelle non rientrano. Esattamente. Dottor Garone, io la ringrazio per essersi messo a disposizione dei nostri ascoltatori questa mattina. Abbiamo detto tutto, c'è qualche altra informazione che ci tiene a dare? Vediamo, sì, intanto precisiamo questo, che anche chi aveva presentato domanda con le prime due finestre, ma per il motivo della data non era stata accolta la domanda, ma rientrasse in questa di questo terzo avviso, la deve ripresentarla. Può ripresentarla, perfetto. Va ripresentata, però non si può riprendere per buona quella che aveva fatto a suo Benissimo. Tempo. Quindi chi si trova in queste condizioni, ecco, abbia cura di rinviarla. Chi tardi arriva male alloggia, avete quest'ultima occasione, approfittatene. Grazie, dottor Garone. Prego. Buona giornata. Buona giornata. Saluti a tutti. Buongiorno. Allora, dopo il riscatto dei conti dormienti, andiamo al riscatto del grasso. Che ti prende? Non posso. Come sarebbe? È una pizza margherita a Napoli, è un imperativo morale mangiare e goderti la pizza. Vorrei, ma tipo 5-6 kg in più. 5-6 kg in più del grasso, specie di quello addominale, conosciamo tutti i misfatti. I medici ogni giorno a Cuore Denari ci mettono in guardia dai danni che questo organo, perché è un vero e proprio organo si tratta, può produrre sulla nostra salute. Ma attenzione, non sempre il grasso, e non solo, viene per nuocere. In studio abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi il professor Carlo Tremolada, direttore scientifico dell'Istituto Image di Milano e presidente del Lipogen International. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora professore, oggi una puntata che ai nostri ascoltatori suonerà un po' strana, perché parliamo dell'altro lato del grasso. Noi sappiamo bene che se è in eccesso, soprattutto nei posti sbagliati, ci nuoce, ma opportunamente prelevato e lavorato può essere utilizzato con finalità sia estetico-riempitive che ricostruttive e funzionali. Oggi quindi con lei parleremo delle mille vite del grasso, ma prima cerchiamo bene di capire di che grasso stiamo parlando e soprattutto che cosa ha di interessante il tessuto adiposo, o meglio ancora, che cosa ha spinto i ricercatori a studiarlo per sfruttarne le potenzialità. Allora, si sa ormai da probabilmente addirittura dai tempi di Napoleone, i chirurghi di Napoleone nelle amputazioni usavano pezzi di grasso dalla parte amputata per medicare. Erano dei chirurghi straordinari che dovevano fare un'amputazione in meno di 5 minuti, quindi utilizzavano quello che c'era, perché ovviamente non avevano altri mezzi. Quindi le potenzialità del grasso, del tessuto adiposo, si conoscevano addirittura da quei tempi. Ovviamente con l'avvento di farmaci più efficaci come gli antibiotici queste pratiche sono andate in disuso. Ultimamente, negli ultimi 10 anni, c'è stato un enorme interesse nel tessuto adiposo, perché si è scoperto che ha i motivi per cui ha queste capacità rigenerative, cioè ha una rete microvascolare molto molto importante, indipendentemente dalle cellule proprio del tessuto adiposo, del grasso stesso, che contengono delle cellule che stanno al di sopra di questi piccoli vasi, che si chiamano periciti, che in caso di trauma o di infiammazione si distaccano e diventano delle cellule rigenerative, che guidano la rigenerazione di moltissimi organi. È straordinario, vero? Accidenti. Quindi è l'organo che, insieme ad altre cose importanti dal punto di vista endocrinologico, di cui non possiamo parlare oggi, guida la rigenerazione di moltissimi altri tessuti. Da qui l'idea di utilizzarlo a fini... La prima idea è stata quella di utilizzarlo come tessuto di riempimento, questo addirittura dagli anni 60. È utilizzato così com'era, cioè preso da una parte... Sempre nella stessa persona. Nella stessa persona, ma addirittura i primissimi chirurghi lo utilizzavano anche in persone diverse, addirittura da animale a uomo. Cioè negli anni 50-60 erano stati fatti dei trapianti di grasso addirittura tra diverse specie, ma c'era un rigetto immunologico, per cui ovviamente questo non funzionava. Non è stata proseguita questa strada. Anche il trapianto autologo non ha avuto grande successo inizialmente, perché c'era un riassorbimento completo di questo grasso, lasciando anche delle fibrosi, insomma, dal punto di vista tecnico non funzionava bene. Poi c'è stato un chirurgo molto importante, si chiama Sidney Coleman, che ha migliorato moltissimo questa tecnica, questo negli anni 90, e è tornato molto molto di moda, anche perché questo è il lipofilling classico. E malgrado questo esistevano ancora dei problemi di riassorbimento, di non completa omogeneità del trapianto, per cui personalmente io mi sono sempre interessato a questo campo e ho cercato di migliorare la tecnica chirurgica della tecnica di Coleman. Con l'idea di quelle celluline che ci ha raccontato, non mi ricordo bene il termine, iniziano i periciti l'hanno conquistate. Lei ha detto: pericita, sarai mio. Esatto. Ti farò lavorare per me. E quindi ha ideato una tecnica Che all'inizio era semplicemente per rendere più facile questo trapianto di tessuto adiposo, più efficiente, cioè con l'idea di rendere di ridurre il grasso a pezzettini piccolissimi che riuscissero ad attecchire. Attecchire vuol dire essere trasportati da un luogo all'altro e rivascolarizzati in maniera ideale. E lavando anche tutta la parte oleosa, la parte sporca del grasso, perché c'è una parte infiammatoria anche lì. La cosa che è risultata straordinaria è quasi per caso, è che oltre all'effetto riempitivo, che era quello che ci si aspettava, migliorato. Quindi quando lei, professor Tremolada, parla di effetto riempitivo, vuol dire ad esempio riempire le rughe o sollevare le cicatrici? Cosa vuol dire esattamente effetto riempitivo? Effetto riempitivo vuol dire che l'obiettivo primario di un trapianto di tessuto adiposo è quello di ricostruire il tessuto adiposo dove manca. Mi faccia degli esempi che io provo a visualizzarli. Ma parliamo anche per esempio di ampie zone post-tumorali che sono state asportate, in cui restano dei buchi, cicatrici molto depresse, in cui è necessario avere del ricostruire volume. Sotto il volume. Un seno mancante, la parte del lipofilling è un parte molto importante che facilita la ricostruzione anche con le protesi. Eccola qua, si fermi un secondo prima che rispondiamo subito a Sabrina, allora, perché lei mi ha dato proprio là. Dopo un tumore mammario, Sabrina, che ci scrive da Riccia, al seno, sono stato sottoposto ad una asportazione mammaria bilaterale totale. Ora, dopo 2 anni e mezzo di lotta, sembra che ne sia uscita. Questa è la prima grande buona notizia. Salutiamo la e ho subito come ultimo l'operazione a novembre, quella di ricostruzione fatta con protesi siliconiche, ma purtroppo la protesi di destra mi dà problemi, forma liquido dovuto ad infiammazione, liquido che ogni 15 giorni circa mi viene siringato. Allora voleva chiedere se ha sentito il nostro lancio sul grasso, se il grasso autologo può essere reiniettato per curare l'infiammazione che mi provoca questa protesi. Allora, è possibile? Che cosa dice la comunità scientifica a riguardo? Allora, il trapianto autologo di tessuto adiposo per la ricostruzione mammaria è ormai ampiamente accettato e usato in migliaia e migliaia di casi in tutto il mondo. Anche qui è molto una questione di tecnica. Sì. Un trapianto ben fatto di tessuto adiposo comunque ha delle ottime capacità, diciamo, di ricostruire un seno mancante, a patto che ce ne sia sufficienza, cioè se uno ovviamente nella zona donatrice non ne ha abbastanza, non può ricostruire, ma a patto che ce ne sia è a sufficienza. È una tecnica molto buona. Che si può utilizzare. Ma anche se non ne ha sufficienza, e questa è una novità, l'uso del tessuto adiposo, in particolare di questo tessuto adiposo micronizzato che si chiama lipogems ed è attivato biologicamente dall'azione meccanica che serve a micronizzarlo, sì, ha un effetto positivo sui tessuti, cioè i tessuti rispondono meglio poi all'impianto di protesi che magari è l'unica soluzione. Quindi li prepara. Li prepara, ad accogliere l'eventuale protesi ad avere un successo maggiore che nell'utilizzo isolato della protesi, che molto spesso può dare delle contratture e dei problemi di indurimento o quello che descrive la signora. La nostra amica Sabrina. 800 24 00 24. Professor Tremolade è a nostra disposizione. Ci ha raccontato che cosa, perché e cosa può fare il grasso, l'altra vita del grasso. Naturalmente adesso ci aiuterà a capire come e chi può utilizzarlo, in che sedi, sicuramente per ringiovanire e dare tono e bellezza alla nostra pelle, ma non solo. Facciamo un po' una panoramica, professor Tremolade, degli utilizzi del grasso, per dare modo ai nostri ascoltatori di mettersi in contatto con noi, come ha fatto Sabrina, e di valutare, perché io sono molto interessata all'applicazione di cui lei mi ha parlato per rigenerare le nostre articolazioni, per sollevarlo un po' dal peso degli anni, ma anche dall'usura. Ecco, stavo dicendo appunto che all'interno del tessuto adiposo, una delle componenti più importanti del tessuto adiposo è questa ricchissima rete vascolare, microvascolare, questi piccoli capillari che sono ricoperti da queste celluline, i famosi periciti. Quello che è la novità, diciamo, di questi ultimi 2 o 3 anni è che questi periciti, che sono i precursori delle quelle famose cellule staminali mesenchimali, certo, che è anche un nome un po' controverso, perché in realtà loro, queste cellule staminali mesenchimali che derivano da questi periciti, non agiscono differenziandosi nei vari tessuti come si pensava fino ad alcuni anni fa, sì, ma agiscono come dei direttori d'orchestra della rigenerazione dei tessuti. Per cui il concetto di trapianto di tessuto adiposo adesso è cambiato da un semplice riempitivo in realtà a un acceleratore della guarigione in differenti tessuti. Straordinario. Allora adesso ci fermiamo, a proposito di direttore d'orchestra, lasciamo naturalmente la bacchetta a Deborah, vedi che Carmelo fa già subito il segno perché ci racconta come stanno andando i mercati e poi noi torniamo subito dopo insieme al professor Tremolade e alle vostre telefonate. A tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Cuore e denari. E dalla pelle al cuore che devo ritornare senza più E grasso sia, ne parliamo oggi insieme al professor Carlo Tremolad, direttore scientifico dell'Istituto Image di Milano e presidente dell'Ipogens International. Ribongiorno professore. Allora, ci ha raccontato di questo nuovo lato del grasso. Noi cerchiamo sempre di eliminarlo, di scrollarcelo di dosso. Tra l'altro, in chiusura di trasmissione, il dottor Speciani ci raggiungerà perché abbiamo pensato di organizzare un programmino per buttare giù la pancetta. Lo facciamo proprio nel cambio di stagione, così per l'estate siamo pronti. Ma il grasso, ce l'ha spiegato il professor Tremolada, ha una nuova vita, un nuovo riscatto, può essere utilizzato per diverse applicazioni da fini estetici, e questo già lo conoscevamo perché ne abbiamo sentito parlare, ma soprattutto la grande novità che il professor Tremolade è venuto a raccontare agli ascoltatori di Cuore Denari, c'è proprio questa della rigenerazione dei tessuti. Sì, della capacità di stimolare e guidare la naturale capacità rigenerativa dei nostri tessuti. Grasso tutto uguale o deve prenderlo da una parte meglio? È più buono quello delle cosce, del gluteo, dell'addome, della parte delle braccia, quello che spenzola un po'? No, in realtà non ci sono grosse differenze. Una volta che questo grasso è stato trattato per essere microfratturato e per attivare i periciti, cioè queste microcellule che sono sulla vascolarizzazione. Cioè, quello che è importante sembra non essere le cellule del grasso vero e proprio, ma è questa microrete vascolare che è la chiave per capire come mai il tessuto adiposo ha tutte queste capacità di rigenerare. Poi, dove lo si prende, si può accontentare il paziente, nel senso che ci c'ha dei punti che sono preferibili per il prelievo, uno prende da lì. No, prende due piccioni con una fava. È straordinario, per cui ti togli dove il grasso ti dà fastidio, anche solamente all'occhio, e vai a farlo lavorare laddove è necessario. Non solo, una volta era necessario prendere delle grosse quantità di tessuto adiposo, adesso è possibile prendere anche 5, 10, 20 cc, quindi cose mini-invasive, per da questo tessuto ottenere il tessuto micronizzato Lipogems, che è in grado di attivare il processo rigenerativo in moltissimi traumi, anche le ustioni, stavo per esempio dicendo, le cicatrici migliorano in maniera radicale. Da quelle dell'acne a quelle delle ustioni severe? Tutte le tipi di cicatrici, perché l'iniezione di Lipogems, di grasso micronizzato, attiva un processo di rigenerazione interna, di rimodellamento interno delle cicatrici. Quindi una sorta di riparazione. Di riparazione tessutale, che noi abbiamo, per esempio, da bambini piccoli sotto l'anno, hanno una capacità rigenerativa pazzesca. Un bambino che ha un danno che sembra anche molto grave per qualunque tipo di incidente, spesso riescono a recuperare perché hanno più capacità rigenerativa di un adulto. Invece con gli anni lo perdiamo. E con gli anni un pochettino viene persa. Quando andiamo a prendere un pochettino di grasso, di tessuto adiposo, che tutti lo donano molto volentieri, e viene reinserito... Vedi, lei è fortunato, professore. Sì, è stata questa la cosa positiva. Viene reinserito nella zona, di danno, che può essere, come ha accennato prima, adesso abbiamo visto che può essere anche un'articolazione danneggiata con un'osteoartrosi importante. Quindi da usura, da trauma? Da qualunque tipo di trauma o anche da malattia autoimmune. Cioè, si è visto che, per esempio, queste cellule pericitarie che diventano cellule staminali mesenchimali hanno un'azione immunomodulatoria. Quindi nelle malattie autoimmuni, sto parlando di, artrite reumatoide, sclerodermia, questo tipo di malattie, si ha veramente un aiuto a calmierare questa infiammazione. Professore, il mondo ci sta lavorando, laboratori di ricerca, diamo anche ancora qualche dato, perché non è... La cosa straordinaria è che questa tecnologia è partita ormai in 27 paesi nel mondo. In particolare io arrivo da un mese e mezzo negli Stati Uniti, dove sono stati eseguiti più di 90 interventi in diversi tipi di patologie, dai centri ustioni, agli ortopedia, all'estetica, sia proprio estetica pura per ringiovanire la pelle, sia ricostruttiva per difetti nelle mammelle o difetti del viso, o radioterapia, che questo è il grosso campo che all'inizio ha proprio è stata la causa per cui si è capito che queste cellule che ha dato tessuto, là a che tutti questi studi quanto, sì. Allora abbiamo Donatella da Vicenza e poi abbiamo Salvatore da Napoli. Donatella, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie, grazie. Cosa vogliamo fare del suo grasso? Allora guardi, dunque, la mia situazione è questa. Ho giocato a tennis per parecchi anni, poi ho smesso all'improvviso anche per guai vari, tra cui una rottura del tendine capolungo giocando a tennis del braccio destro, e la qualcosa mi ha provocato un vero e proprio buco nel muscolo bicipite del braccio destro, che è abbastanza fastidioso. Teniamo conto che dall'altra parte la pelle ormai alla mia età comincia ad avvizzire, e ho chiesto in varie circostanze ai medici che mi supportano con qualche punturina se era possibile riempire le braccia, e mi hanno detto no, dice ci vorrebbe troppa roba e poi durerebbe poco. Ogni tanto i medici sono crudeli, guardi. Perché io mi ricordo che ad un mio amico che fa il chirurgo, un collega del professor Tremolado, ho detto: beh, senti, magari poi prima o poi verrà il tempo in cui dovrò rifarmi magari gli occhi, una blefaro. No. E lui mi ha detto: Nico, veramente il tempo è già passato. Pensi lei, che antipatico, che maleducato, ma gli voglio bene. Quindi, Donatella, è vero, sono molto crudeli, ma vediamo se il professor Tremolada è un po' più buono. Allora, sulle riparazioni della muscolatura e dei tendini, sembra questo nuovo tessuto, l'ipogens, il tessuto adiposo microfratturato, ha avuto degli effetti eccezionali, soprattutto nelle lesioni acute, dove migliora tantissimo la riparazione. Cioè, mi salta il tendine d'Achille e me lo ricuce, questo tessuto me lo... Una delle applicazioni maggiori che sta in questo momento... viene testata praticamente ovunque, in moltissimi centri universitari negli Stati Uniti, in Italia, in Polonia, cioè in Inghilterra, in Medio Oriente, sì. è proprio l'uso del tessuto adiposo, sì, come supporto a vari interventi nel facilitare la guarigione. Cioè, persino l'Istituto Pasteur sta facendo degli studi su animali per proteggere la sepsi. La sepsi sono le infezioni diffuse. Per quanto riguarda la signora, bisognerebbe vedere l'entità del danno, ma in teoria, se gli hanno detto che non c'è, non so, magari è magrissima, e in questo caso un riempimento del braccio non ha senso, cioè, dice lei. Non lo so, basta, magari non è possibile. Basta portare un po' le maniche un pochino più lunghe. Esatto, ne approfitti per fare un po' di shopping, va qua, do via libera. E sono così eleganti. Smodato dalla carta di credito. Salvatore, buongiorno da Napoli, 800 24 00 24, raccontateci che cosa volete fare del vostro grasso e che dove lo utilizzereste per fare che cosa. Salvatore, buongiorno. Salve, buongiorno. Salve, senta, salve. Mi dica. Volevo chiedere, in conseguenza di un intervento di rimozione di una parte della mandibola per l'asportazione di un tumore benigno, una cheratocisti, mi è stata asportata quindi un pezzo di mandibola, la branca ascendente, e ovviamente mi si è creata una simmetria facciale. Volevo sapere, siccome la eccellentissima unità di Parma, insomma, professor Sesenna, molto molto bravo, professor Sesenna, che... Ma vedi, si conoscono, è una rete proprio come i pericipi, che io ringrazio per la vita, perché ha fatto un intervento, sì, magistrale, insomma, sono persone competenti, non v'è dubbio. Però Salvatore, vada alla domanda, così andiamo ai mercati per le informazioni sul traffico. Mi è rimasta la simmetria e volevo capire se con questo intervento si riesce, quali sono i risultati. Grazie Salvatore, resti con noi, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Restate con noi per le domande al professor Tremolade, per scoprire in chiusura insieme al dottor Speciani che cosa abbiamo pensato per voi, per aiutarvi nel caso a buttare giù la pancetta. A tra poco. Cuore e denari. Le sette vite del grasso. Ne stiamo parlando con il professor Carlo Tremolade. In chiusura di trasmissione però ci concentreremo sui consigli e programmi per buttare giù la pancetta. Nel caso voi non la vogliate affidare al professor Tremolade per fini estetici, ricostruttivi o rigenerativi, della viabilità, il nostro ascoltatore chiedeva se era possibile ricostruire per la simmetria facciale. Dopo un intervento. È una delle indicazioni principali dell'ipofilling, proprio quelli di migliorare le asimmetrie facciali. Il lipogems in particolare è molto più stabile e migliora anche casi, per esempio, dopo tumori non benigni, come quello dell'ascoltatore, ma in cui magari sono seguiti da radioterapia. Ci sono dei miglioramenti incredibili nei tessuti dopo impianto di tessuto adiposo, dopo danni da radioterapia, perché la radioterapia ci cura ma crea anche dei danni. E questo è uno degli obiettivi principali dell'ipogen. Negli Stati Uniti, il Cancer Treatment Center of America, che sono 40 ospedali, partiranno con un trial su 900 pazienti proprio su questo argomento. Aspetto, quindi vi stiamo dando l'attualità dell'attualità, anzi un po' prima dell'attualità. Super anteprima direi. Super anteprima, 800 24 0024. Professore, intanto volevamo le riassumo alcuni messaggi dei nostri ascoltatori. Può riparare la cartilagine? Aiuta moltissimo la riparazione delle articolazioni. Si può intervenire su un tendine già operato, tendine d'Achille in questo caso, e sull'altro che è usurato, causa attività sportiva intensa, che cosa si può fare? Il tendine d'Achille ci preoccupa molto. Non solo il tendine d'Achille, ma anche la cuffia dei rotatori della spalla, tutti i tendini, e questo ci sono anche esperienze enormi in veterinaria, e soprattutto sui cavalli da corsa, in cui la riparazione del tendine con innesto di tessuto adiposo microfratturato, praticamente riporta il tendine ad essere quasi perfetto nel giro di 4 mesi. Allora, Betta da Bologna, un po' impaziente, perché dopo il secondo messaggio ce ne ha scritto subito un altro dicendo ripeto. Allora, in quanto tempo il tessuto adiposo preso dal paziente può già essere reimpiantato? Vale a dire il tempo di micronizzazione? Ah, però che questa è una domanda molto tecnica per questa premura. Tecnica ma molto interessante. Ci vogliono circa 20-25 minuti, quindi si viene fatto durante lo stesso intervento, e questo è molto diverso dalle tecniche classiche in cui si usavano le cellule staminali da tessuto adiposo, in cui invece il grasso veniva preso, veniva trattato con degli enzimi. Queste cellule venivano separate, coltivate e poi rimpiantate dopo giorni o settimane nello stesso paziente. La tecnica odierna è molto più semplice ed è anche molto più efficace in un confronti diretti che sono stati fatti per esempio alla Case Western University a Cleveland. Allora, domande, curiosità, perché stiamo affrontando un argomento nuovo, professor Tremolade, che naturalmente incuriosisce molti nostri ascoltatori. Io so che lei è sempre in giro per il mondo, ma possiamo chiedere agli ascoltatori di scriverci a Cuore Denari per avere indicazione, una risposta da quello che è uno dei massimi esperti in questo campo. Intanto salutiamo anche il dottor Attilio Speciani, allergologo immunologo clinico a Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dottor Speciani, noi insieme al professor Tremolade siamo andati avanti, abbiamo parlato del grasso e delle sue sette vite, ma abbiamo promesso ai nostri ascoltatori di aiutarli a buttare giù il grasso del giro vita. È un grasso buono, professor Tremolade, tra l'altro. Il dottor Speciani sul grasso addominale ha sicuramente una visione diversa dalla sua. Ma il dottor Speciani parlerà sicuramente del grasso interno all'addome e di quello esterno. Non è... Anche il grasso esterno non è buono in sé, è buona alla rete microvascolare che c'è intorno, è quella che aiuta la rigenerazione. Il mantenersi snelli è importantissimo, come dirà. E allora ci aiuterà a farlo il dottor Speciani, perché insomma abbiamo una proposta non indecente ma smagrente per i nostri ascoltatori, vero? Sì, bellissima, dai. E che c'entra davvero col grasso, quindi riusciamo a mettere in moto una serie di elementi in più diamo supporto anche a Tremolada, perché riniziamo a far muovere le persone, quindi magari a migliorare un po' le condizioni anche varie delle articolazioni dei luoghi in cui anche lui lavora. Fantastico. Dottor Speciani, noi la sentiamo molto male, un po' gracchiante, invece sappiamo che la sua voce è molto bella. È bella e squillante. È squillante, così va meglio. Un pochino. Allora, per le prossime 4 settimane, il team del dottor Speciani che cosa ha pensato per noi? Direi che abbiamo pensato questo, insieme a due delle nostre top nutritionist, la dottoressa Camerota e la dottoressa Chiozzi, abbiamo stilato proprio un elemento tale per cui le radio, le ascoltatrici e gli ascoltatori ovviamente che mandano una comunicazione riceveranno delle indicazioni settimana per settimana per iniziare a riprendere in mano un percorso positivo, bello. A proposito del grasso, smuoverlo un po' magari ad asciugarsi. Esatto, quindi abbiamo indicato i punti di partenza, perché di solito c'è la gente che arriva alla prova costume, come dire, un pochettino preoccupati e cercando di fare in 15 giorni, prima del 15 luglio. Certo. Tutto un insieme di quindi cose. Noi giochiamo d'anticipo, il programma sarà d'anticipo. Composto da indicazioni alimentari, nutrizionali, ma anche per attività sportiva. Esatto, giusto. Esatto, partendo da alcuni elementi, e a me piace sempre ricordare che la dimensione della pancia, nel senso che misurarsi in centimetri, anziché salire sulla bilancia perché poi a volte uno è fatto variamo, di gusto, di grasso, certo. Eccetera, però già misurarsi davvero non a livello dove mettiamo la cintura, la vita si misura all'altezza dell'ombelico, no? Perché i maschietti spesso arrivano e dicono no, ma io ho sempre un 100 di cintura. No, invece è l'ombelico che fa la differenza. Dottor Speciani, allora diamo tempo ai nostri ascoltatori entro le 12 di sabato 5 marzo di scrivere a Cuore Denari una mail e poi noi di lunedì in lunedì insieme al team del dottor Speciani vi invieremo il programma settimanale. Dottor Speciani, grazie per essere grazie. Stato con noi. Grazie a voi e a prestissimo. Allora, professor Tremolada, il riempimento delle rughe al posto dell'acido ialuronico? È leggermente diverso, anche qui l'effetto non è solo riempitivo, ma è un effetto di ringiovanimento reale. Quindi ritorniamo ad avere 20 anni, ma come diventeremo? Senta, invece per una coxartrosi ormai grave, che tra l'altro ci scrive Agnese, insomma gli dà parecchi problemi, potrebbe essere una soluzione questa formula del grasso? Beh, sicuramente una soluzione nel caso sia controindicata le protesi, che nel caso di coxartrosi funzionano molto molto bene le protesi, soluzione protesica. L'articolazione dell'anca è molto piccola, per cui si ha difficoltà anche a mettere il tessuto adiposo, ma in caso abbiamo visto che in casi in cui è da rimandare o è controindicata anche per motivi generali, si sono avuti dei buoni risultati. Quindi artrosi cervicale, le sto leggendo i messaggi che arrivano su WhatsApp. Artrosi cervicale, c'è un centro nel New Jersey che le sta facendo con l'Hipogems, anche lì hanno ottimi risultati. Però andare fino in New Jersey è un po' lunga, perché se poi una tappa intermedia. Per ora le articolazioni vengono trattate, ci sono un grosso ospedale a Verona, i Rizzoli di Bologna, ha iniziato un trial e si siamo concentrati su spalla, ginocchio, caviglia e anca in casi particolari. Sulle articolazioni cervicali ci vuole un po' più di tempo. No, ci sono dei centri molto specialistici in questo momento, però sono americani. Ecco, bisogna tra l'altro, come battute, immagino i capelli, posso usare il girovita per riavere il ciuffo dei 20 anni, insomma. Ma di capelli, del colore dei capelli parleremo proprio lunedì. Esatto. Hanno scoperto il gene del capello grigio, ma non solo, anche quella del monociglio, della barbariccia, insomma peli, capelli e dintorni per lunedì. Ma tu tornerai? In che senso? Un altro tema. Sì, direttiva europea del credito al consumo che tanto fa arrabbiare tutti in questi giorni. Specificheremo anche la questione delle 18 rate che si possono sospendere prima che la banca ci espropri la casa. Allora, scriveteci, vi ricordiamo cuoredenari@radio24.it per il programma, per snellire la pancia, ma per tutte le domande su cuoredenari@radio24.it e anche per tutte le domande naturalmente sulla questione del momento, mutui e dintorni. Professor Tremolada, grazie per questa anteprima. Grazie a voi. Buona giornata. Buon weekend a tutti.